later than you think. La fabbrica di polli si sente da lontano, il sordido richiamo di una vita in batteria. Dietro quei cancelli che cosa nasce prima? L'uovo, la gallina, le penne o i calamai? La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non cuoce, quasi mai. E mentre nella fabbrica di polli il macabro ciclo della vita e della morte non accenna a rallentare, Kappa e Drago sono tornati a essere uomini pollo dopo una visionaria parentesi quali ragazzini freschi di diploma. We tell you this frankly. If you wish to avoid the excitement and tension of these imaginative plays, we urge you, calmly but sincerely, to turn off your radio now. Kappa, però siamo due imbecilli, lasciamelo dire. Abbiamo dato tutti i nostri beni, che vabbè, non erano granché, alla gallina Dixie. Siamo andati anche dal notaio, ma per bloccare la pollizzazione l'abbiamo fatto, no? E adesso invece siamo di nuovo al punto di prima. Ma stai sereno, Drago, scusa, preferivi restare un ragazzino e passare tutto il giorno a farti foto ai genitali col videofonino? Eri stufo anche tu, quindi. Sì, ero stufo. E allora, dai. Però questa è bella, no? Questa, spera. E questa. Allora, pollo in sbattimento, cosa sta succedendo? Aggiornami un po'. Questa storia di Unghiute mi sta facendo impazzire, non seguo più niente di niente. Beh, allora, i due spilungoni sono tornati uomini pollo, quindi ormai ci siamo, Ma sono già maturi? Sì. Allora, senti, se qui si fermano loro due, tu e Tarek potete uscire. Vai. Ma solo quando Kappa e Drago sono completamente pollizzati, però. Vabbè, eravamo già d'accordo così. Giusto. È questione di numeri, pollo. Io sono un amministratore delegato. Il mio compito è quello di far quadrare tutto. Se due uomini diventano polli, due polli devono ridiventare uomini. E questa volta tocca a te e a quel, scusa, lasciamelo dire, rincoglionito di Tarek. Bene, bene, va bene così. Però scusa, dimmi una roba, ma perché Tarek? Dovevi prendere proprio lui con te. Io avevo un nominativo da consigliarti. E chi sarebbe? Scattini. No, Scattini lascialo stare, Ma poi non ti ricordi, l'abbiamo già spedito a Cucamonga? In quell'allevamento gestito da messicani cocainomani, no? Vabbè, mi sembra giusto così, dai, la fine che si meritava. Il destino altro non è che il più infallibile degli arbitri. In fondo Scattini è sempre stato un perdente. Pollo? Pollo? Pollo in sbattimento? Ma dove sei? Qui in chiesa, dice che c'è, ma poi non c'è mai. Qui non c'è mai nessuno. Ci sono io. Il confessionale elettrico. La mia sfera affettiva è stata definitivamente distrutta dall'indifferenza nella comunità intera. Confessatevi inserendo un gettone sagomato nella mia fessura sagomata e aspettate con fiducia l'assoluzione. Amen. Padre elettrico. Fedele, esprimiti in un modo più consono alle tue sembianze semi-umane. Sì, padre elettrico, le abbiamo provate tutte per uscire dalla pollizzazione, ma finora non ce n'è riuscita nemmeno una. Siamo destinati veramente a trasformarci in polli? E che ne so, io sono qui per ascoltare i peccati, non per dare consigli di sopravvivenza in un ambiente ostile. Quello che mi stai chiedendo esula dalla sfera delle mie competenze. Sì, ma padre elettrico, anche se lei è fatto di circuiti e di microchip, sento che possiede un cuore umano che riesce ad avvicinarsi all'animo altrui, cogliendone le sfumature, i disagi e i bisogni. Padre, ci aiuti a ritrovare la via per casa. State lontani dal pollo in sbattimento. Diffidate di lui. È tutto quello che posso dirvi. Sfera. Ma sì, ma... Sfera. Ma sfera in che senso? Sfera. Scusi lei, mi sembra un pollo iscritto all'Opus Dei. Io l'ho vista, sa, lei lascia tracce matiche in città. tu, ma non ti sembra un po' blasfemo stare con le chiappe al vento, con la frusta in mano a dir l'Ave Maria? Maria, Maria, ti amo. Chiedi a me se vuoi due calci in culo, chiedi a me, vuoi essere mortificato, chiedi a me, vuoi due frustate al volo, chiedi a me, se vuoi ti recito Baudelaire, i fiori ti faranno male, spero possano bastare, altrimenti te ne do di più, altrimenti te ne do di più, altrimenti te ne do di più. La fabbrica di polli. Pronto? Pronto, amministratore. Buongiorno presidente, come andiamo? Buongiorno, tutto buono, e voi? Bene, bene, tutto a posto. Senta, allora io ho deciso, lascio tutto a voi piccioni. Io mi ritiro a vita privata con il colonnello Unghiut, che mi ha telefonato da Montevideo e mi aspetta lì per ricominciare una vita, presidente. Mi congratulo per questa sua decisione. E vedesse che se facesse tutto quello che io dicessi, tutto andasse bene. Lei per me è stato un maestro di vita. Da lei ho imparato che tutti i miei studi di classic management, new age management, autistic management, analanatral, non valgono niente, niente a confronto con l'esperienza del presidente del sindacato dei piccioni pensionati. Lei è un mito per me. La ringrazio, grazie, grazie. Anni e anni di lotte sindacali che hanno visto me e lei confrontarci da opposti fronti. Non hanno scalfito la stima che io provo per la sua persona neanche, ma niente. Che mi sta dicendo, è musica per le mie buone orecchie. Io sono circondato da una massa di imbecilli che sono fotti solo perché sono tanti, ma alla fine ho sempre a che fare con dei deficienti che non sono capaci di fare niente. Ogni tanto parlare con persone di un certo livello fa piacere. Senta presidente, dica. Le consiglierei una cosa, se me lo permette. Dica. Di trattare bene due polli parlanti che si chiamano K e Drago. Insomma, loro sono uomini di livello che si trasformeranno in polli, e questo è il loro destino. Però con loro, mi creda, potrà ragionare, discutere di quello che vuole, insomma. Tu capito. Siamo già alle raccomandazioni. Va bene. Me lo segno qui. Cappa e Drago. Presidente, non la prenda proprio come una raccomandazione, è un consiglio, è un tentativo di, così, nel mio piccolo, di ridarle qualcosa. Io mi pare che le conosco quei due, sono quelle del lanciafiamme, del Kalashnikov, di tutte quelle belle idee. No, presidente, sono errori di gioventù, dai, adesso saranno, vedrà che saranno polli modello. Però adesso basta parlare, presidente, che mi parte l'aereo per Montevideo. La saluto, presidente, la fabbrica è sua, ne faccia quello che vuole. Arrivederci, carissimo. Ci do un baciuzzo pure io, tanti baciuzzi. Baciuzzi, presidente. Quel faccione bello che c'ha. Presidente, baciuzzi a lei. Che cosa succederà adesso? Ora che si è consumato l'ennesimo tradimento, come riusciranno Cappa e Drago a salvarsi dalla pollizzazione eterna? Non dimenticatevi di seguire domani a mezzanotte su Radio 3 l'ultimo definitivo allestimento de... La fabbrica di polli. La fabbrica di polli produce, non chiude, non chiude. La fabbrica di polli produce, non nuoce quasi mai. Barnum.